Oh sì, sembra che tra i 40 e passa simboli che corriamo il rischio di trovarci sulla scheda elettorale quel 13 giugno di cui parlava Felice, e ci sarà, oltre a quello dei socialisti, ci sarà quello dietro cui si nascondono come dietro a una foglia di fico quegli eterni burloni dei radicali. In questa ultima incarnazione sembra costoro, rinunciando alla Minerva in berretto frigio, che ormai è una cosa vecchia, alla rosa nel pugno che non c'entra più, alla testa di Gandhi che è meglio lasciarlo lì dov'è e a quant'altro, hanno deciso di presentarsi dietro l'insegna di una non meglio precisata lista Bonino, e con il nome a caratteri di scatola della grande Emma caratterizzano il nuovo emblema. Niente di riprovevole, siamo in democrazia ciascuno è libero di scegliersi il leader che crede. Ci sono persino delle persone da bene che ritengono che la Bonino sia l'uomo giusto per la più alta carica dello Stato, e sostengono che la stessa ha recato non poco lustro al paese con la sua attività di commissario dell'Unione Europea. Non ho motivo da dubitarne personalmente. L'Emma in questione aveva l'incarico di occuparsi dei problemi della pesca e di quelli degli aiuti umanitari, e anche se in tema degli aiuti umanitari ha combinato ben poco, può darsi benissimo che sulla pesca sia andata fortissimo, io non lo so. Se è stata tanto brava, semmai sarebbe il caso di lasciarla lì dov'è a evitare catastrofi ittiche, ma tutti desiderano migliorare, e se lei vuole guidare una propria lista al Parlamento europeo ha tutto il diritto di farlo. Sarà sempre un progresso rispetto a quando anni fa, in quanto nota libertaria, si era fatta eleggere al Parlamento italiano sotto il simbolo di Berlusconi. C'è un solo particolare che mi lascia perplesso. Sul simbolo della nuova lista, a quanto mi è sembrato di vedere sui giornali, posso sbagliarmi, ma a quanto mi è sembrato di vedere sui giornali, figura sul modello della vecchia lista Pannella anche una versione mignon dell'emblema pacifista. E sapete, il cerchio con la Y rovesciata, è quello che forse rappresenta un uomo morto con le braccia allargate e forse due che fanno l'amore, è controverso, ma che comunque accompagna fin dai lontani anni 60 le povere lotte di chi allora, come oggi, alla guerra, ai suoi strumenti, alla sua logica, non riusciva e non riesce a rassegnarsi. Ora, è vero che di questo composito e mal definito movimento facevano parte una volta anche i radicali, ma è roba di tanto tempo fa. È da un bel po' che gli amici di Pannella e della Bonino con il pacifismo hanno chiuso, che invocano bombe interventi di terra che ci assicurano che contro i nuovi Hitler dei Balcani e del Medio Oriente non c'è altro da fare che mobilitare tutto il peso militare disponibile. È un'opzione lecita, tant'è vero che la condividono a destra e a sinistra a larghi strati d'opinione pubblica, ma è un'opzione che con quel simbolo, non ha proprio nulla a che fare. Tutti siano liberi di illudersi su se stessi. E i radicali possono credere di perseguire la pace attraverso la guerra, figuriamoci, è la bugia più antica del mondo, non si vede perché non possano credervi anche loro. Ma non possono far finta di non sapere che il movimento pacifista, quello che usa quel simbolo, a questa illusione non crede. E che esibire quell'insegna significa presentarsi con indifferenza per le ragioni e l'identità degli altri, per quello che non si è, che non è esattamente una mossa elegante per chi chiede il voto degli elettori. Ci dia retta la Bonino. Sul simbolo della sua lista metta qualcosa di meno caratterizzato, che so, l'immagine del suo volto ridente. Qualcuno cederà senz'altro la tentazione di cancellarlo con un tratto di matita copiativa e sarà un voto guadagnato.